mercoledì 10 gennaio 2005, sono le 19:05 minuti. I suoni che sentite in sottofondo sono quelli della Via Pontina. E ritornano dopo una lunga pausa di pendolerire in formato audio, anche e soprattutto grazie a questa piccola rivoluzione tecnologica del podcasting che permette più facilmente pubblicare più facilmente i file audio sul web e quindi conseguentemente anche di ascoltarli più facilmente. Le cose non sono granché cambiate, la vita di chi vi parla è ancora in grandissima misura si svolge dall'interno dell'abitacolo di una automobile che attraversa quello che ho avuto modo già di descrivere come una sorta di Cile, un paese immaginario lungo e stretto che percorro in lungo in largo per 2 volte al giorno, più in lungo che in largo, naturalmente. In questi ultimi mesi ho scoperto dei nuovi, importanti, mezzi di comunicazione, in particolare delle nuove radio, che rendono più sopportabile questo viaggio quotidiano. E che ascolto con il lettore MP3. Sto parlando in particolare della canadese CKUT che trasmette davvero cose egregie. Il sito per i curiosi è www.ckut.ca. È una radio che permette innanzitutto di scaricare integralmente i propri archivi in MP3. In ottima qualità, 128 kilobit al secondo, e per un appassionato di musica jazz come me è indubbiamente una fonte pressoché inesauribile perché ci sono almeno due programmi radiofonici che consiglio a tutti di scaricare. Sto parlando di Dobbins Den, un magazine che va in onda ogni domenica. Ma che è comunque scaricabile in qualsiasi momento, anche durante la settimana, condotto da un vecchietto di 70 anni che si chiama Len Dobbin e che è ormai giunto alla 500ª trasmissione e che ci accompagna con straordinari aneddoti nel mondo della musica jazz, soprattutto della musica jazz degli anni 50-60, ma senza disdegnare escursioni importanti anche nel jazz contemporaneo. Len Dobbin è indubbiamente una delle grandi voci che permettono ancora a questo genere musicale di percorrere, se non l'etere, quantomeno i grandi backbone di internet anche sotto l'Atlantico. E questo è per noi appassionati di musica jazz è un po' una salvezza, perché come sappiamo, questo genere musicale è pressoché bandito, per vari motivi dall'etere nostrano. E poi c'è un altro programma che vorrei consigliare sempre su CKUT che si chiama Jazz Euphorium, più orientato, diciamo, al jazz contemporaneo, soprattutto al jazz canadese, ma per molti europei anche l'opportunità di scoprire un universo molto molto prolifico, che è appunto quello della musica afroamericana, sviluppata da artisti quantomeno residenti in Canada. Che, ripeto, consiglio a tutti, è un ascolto interessante e soprattutto molto, molto più stimolante, molto più inspiring, come dicono gli amici canadesi, inspirational addirittura, di tante cose che si ascoltano in Europa, ma anche negli Stati Uniti.